perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Nelle falde, nei pozzi, sostanze inquinanti riscontrate anche in prelievi a Campione su 500 persone. 250.000 veneti tra le province di Verona, Vicenza e Padova saranno sottoposti ad analisi del sangue. A Genova il petrolio finito nel Polcevera tocca il mare, chiazza avvistata a Pegli, si lavora per non chiudere le spiagge, timori per le piogge in arrivo nel fine settimana. Un camion investe gli operai al lavoro su una statale nel Nolano, due di loro sono morti, altri tre sono feriti. Siamo stufi delle beghe, dice Salvini a Berlusconi in merito alle candidature per Roma. Meloni esclude incontri con l'ex cavaliere. Questo è un fine settimana di partenze per il 25 aprile, atteso brutto tempo sabato e domenica, quasi 7 milioni e mezzo di italiani in viaggio, secondo Federalberghi. La morte di Prince, sarebbe stato ricoverato una settimana fa per overdose di oppiacei, forse il malore che lo ha ucciso è dovuto a questo, il mondo della musica lo ricorda. Ottimi ascolti per il Rischiatutto di Fabio Fazio, ieri 7 milioni e mezzo di persone davanti allo schermo per la prima puntata e stasera la seconda puntata con Fiorello ospite. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, 349-238-6666 per i vostri sms, così come per i messaggi su WhatsApp, e c'è anche il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno, nel quale vediamo ogni giorno qualche anticipazione su quello di cui tratteremo in trasmissione. In apertura dunque ci occupiamo del Veneto, dove 250.000 persone saranno sottoposte ad analisi del sangue. Nelle falde, nei pozzi di 31 comuni sono state trovate sostanze pericolose. Una maxi campagna sanitaria che coinvolgerà 250.000 veneti residenti in 29 comuni nelle province di Padova, Vicenza e Verona. E questa è la decisione che ha preso la Regione assieme all'Istituto Superiore della Sanità e all'OMS. Nelle analisi di 507 cittadini esposti all'inquinamento di una falda acquifera è stata riscontrata un'alta concentrazione di sostanze perfluoroalchiliche, meglio conosciute con la sigla internazionale PFAS, dovute queste sostanze agli sversamenti di un'azienda chimica di Trissino nel Centino, che però ha respinto le accuse, accusando invece i depuratori dei consorzi. L'allarme lanciato dalla Regione è partito da un'indagine del CNR del 2013 che aveva esaminato i principali bacini idrici in Italia. In Veneto era stata rilevata l'anomalia più rilevante, che aveva fatto scattare un successivo protocollo di sicurezza. Adesso sono scattate le misure della Regione, mentre la Procura di Vicenza ha sollecitato la trasmissione dei dati. Un fascicolo sull'inquinamento era stato aperto da un anno, ma allora le PFAS non rientravano nella tabella delle sostanze inquinanti. Antonino Padovese, Radio 24, Sole 24 Ore, Vicenza. E ne parleremo più avanti con Loredana Musumeci, che è il direttore del Dipartimento Ambiente dell'Istituto Superiore della Sanità. Per rimanere in tema di ambiente, parliamo dello sversamento di petrolio nel torrente Polcevera a Genova, e lo facciamo con Italo Porcili, assessore all'ambiente del comune. Buongiorno assessore, benvenuto. Buongiorno. Allora, ci dà un quadro della situazione al momento, perché da quel che abbiamo visto nelle immagini, da quel che abbiamo letto, è anche arrivato sulle spiagge questo petrolio, a Pegli in particolare. Qualcosa è arrivato anche sulle spiagge di Pegli, e tuttavia, quindi indubbiamente, insomma, rispetto alle previsioni iniziali, all'auspicio che quelle aree della città non fossero minimamente interessate, poi è accaduto, anche se in misura non così significativa. Però gli ultimi aggiornamenti mi confermano gli obiettivi della giornata, per cui si dovrebbe arrivare entro la giornata a rimuovere, con le operazioni di aspirazione in corso da giorni, tra il 90 e il 100% delle sostanze oleose presenti. Che è il punto importante, mi sembra di capire, assessore, perché domani dovrebbe piovere. Per la verità ha iniziato a piovere un po' anche oggi, e quindi questo ovviamente era l'elemento di preoccupazione. Tuttavia al momento, ho sentito una mezz'ora fa, insomma, alcuni dei soggetti, al momento per adesso non sembra che questa timida pioggia, per fortuna, non abbia peggiorato la situazione. Seguiremo l'evoluzione della giornata, intanto la ringrazio, grazie a Italo Porcili, assessore all'ambiente del comune di Genova, e la cronaca ci porta anche nel Nolano, dove sono morti due operai. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11 sulla statale 7 bis all'altezza di Nola, provincia di Napoli. Stando alle prime ricostruzioni, un tir probabilmente fuori controllo ha travolto gli addetti di un'impresa che per conto dell'ANAS stava eseguendo interventi di pulizia sulla carreggiata. un tratto di strada disastrato che collega Nola a Villa Literno. Pesante il bilancio, 2 operai morti e altri 3 feriti, uno dei quali in condizioni gravissime. Le vittime sono morte sul colpo dopo essere state scaraventate per una 15ina di metri in una scarpata. Il mezzo pesante è uscito fuori strada. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ripristino e messa in sicurezza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci occupiamo di politica adesso e soprattutto delle candidature a Roma. Pare che lo scontro tra Berlusconi e da una parte Meloni e Salvini dall'altra non si sia per nulla placato. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, Simone, ormai lo strappo è certo. Dopo il mancato ritiro di Guido Bertolaso a Roma, Matteo Salvini della Lega va avanti lo stesso e continua a puntare su Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. Il centrodestra si sfalda con Silvio Berlusconi, che invece continua a sostenere l'ex capo della Protezione Civile. Se l'alleanza si estende, bene, dice Salvini, ma non possiamo forzare nessuno. Se non vengono va bene lo stesso, sono stufo delle beghe politiche, dice il leader della Lega. Non posso perdere altro tempo. La Lega Nord vuole fare arrivare Meloni in Campidoglio. Berlusconi è circondato da persone che pensano solo alla poltrona e che se si presentassero non prenderebbero nemmeno il voto della loro sorella. Giorgia Meloni anche aumenta la distanza con l'ex premier. Da Berlusconi mi sarei aspettata un guizzo che fosse venuto al Pincio ieri, dove, lo ricordiamo, Meloni ha aperto la campagna elettorale per Roma. Non è successo, dice Meloni, e non ci sarà un incontro in giornata, non è un programma, non ne ho notizia. Forza Italia poi è sempre più sull'orlo della scissione, mai con i fascisti, dice Tajani, ma Toti risponde: se corriamo da soli perdiamo il 5%. A te, Simone. E vedremo come si evolverà questa vicenda infinita. Intanto veniamo ad una che incrocia politica e giustizia, l'inchiesta di Potenza. Oggi Gianluca Gemelli, indagato nell'inchiesta che ha portato alle dimissioni dell'ex compagna, il ministro Federica Guidi, viene ascoltato dai magistrati. Sara Monaci, buongiorno, del Sole 24 Ore. Buongiorno. L'interrogatorio è cominciato da poco, proseguirà probabilmente ancora per le prossime ore. Da quello che è trapelato già da qualche giorno fa, Gemelli, appunto il compagno dell'ex ministro allo sviluppo economico Guidi, che si è dimessa proprio dopo lo scandalo, è al centro dell'inchiesta perché è accusato di traffico illecito di influenze. E si era appunto parlato di una sua forma di collaborazione, non tanto di dichiarazioni ma di una difesa, ma di una parola di verità, un chiarimento, così si era espresso l'avvocato. A questo punto ci sarà da capire cosa emergerà più tardi da questo interrogatorio, che è fondamentale per gli inquirenti, perché appunto intorno a Gemelli si sarebbe, secondo la tesi dell'accusa, creata una forma di associazione a delinquere per quello che riguarda il dossier, che riguarda l'infrastrutturazione del porto di Augusta, e che aveva come mira la pressione costante e continua nei confronti del governo, del Parlamento e di persone comunque molto influenti negli ambienti romani per poter indirizzare la legge navale o gli emendamenti relativi allo sviluppo del sito di Tempa Rossa della Basilicata. Da capire appunto nelle prossime ore che cosa emergerà da questo interrogatorio. Io intanto ti ringrazio, grazie a Sara Monaci del Sole 24 Ore. Il fine settimana che si apre vedrà 7 milioni e mezzo di italiani in viaggio, secondo i dati diffusi da Federalberghi questa mattina. Dedichiamo un attimo a tutto questo perché lunedì è il 25 aprile, quindi è un fine settimana lungo. Roberto Mastrangelo, responsabile esercizio di ANAS, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Che cosa possiamo aspettarci sul fronte traffico? Quindi, come ha detto lei, un fine settimana lungo, prevediamo ovviamente un aumento del traffico a partire da questo pomeriggio e poi nella mattinata di domani, e per i rientri nel lunedì pomeriggio lungo le principali direttrici della rete stradale di nostra competenza, a partire dal grande raccordo anulare, che è sempre interessato appunto dei grandi spostamenti, per passare all'Aurelia nel tratto laziale toscano, la 16 adriatica, la 36 in Lombardia, la 309 Romea, e ma anche la Salerno Reggio Calabria, soprattutto nel tratto iniziale Campano e Lucano. Però come è stato anche detto, occhio alle condizioni meteo, perché non sono particolarmente favorevoli su gran parte delle nostre regioni, quindi particolare attenzione alla guida. Particolare attenzione non solo per le condizioni medie e per il traffico, ma in assoluto, perché ricordiamoci che la distrazione e la velocità sono ancora purtroppo la principale causa degli incidenti che avvengono sulle nostre strade, quindi con massima attenzione, massima attenzione, soprattutto in questi giorni. La ringrazio, grazie Roberto Mastrangelo, responsabile esercizio ANAS, che già ci accennava a quello che succederà dal punto di vista del meteo. Che tempo troveremo? Lo chiediamo a Paolo Corazzon di 3B Meteo. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, vediamo gli ultimi dettagli su questo fine settimana che purtroppo si conferma essere particolarmente instabile sull'Italia. Si parte già domani con parecchie nuvole al centro-nord e in Campania, anche con alta probabilità di piogge e rovesci, anche se per il momento precipitazioni non particolarmente intense. Più fortunate le isole maggiori e le estreme regioni meridionali, dove tutto sommato, a parte qualche nuvola, il tempo ancora tiene. Poi domenica ci attendiamo un miglioramento al nord-ovest e ancora all'estremo sud a situazione discreta, mentre sarà una giornata molto instabile al nord-est, nell'Italia centrale e su parte del sud peninsulare, con anche dei temporali. Infine un accenno al 25 aprile, che vedrà un netto miglioramento al nord e poi piano piano anche nelle regioni centrali, mentre nubi e piogge si trasferiscono al sud peninsulare, ma attenzione, anche con temperature più contenute sono previste anche delle nevicate sull'Appennino centrale. Con questo è tutto. Bene, bene, ti ringrazio, grazie a Paolo Corazzon di 3B Meteo. Cambiamo decisamente argomento, andiamo all'estero. Il presidente americano Obama in visita a Londra, parole dure contro l'ipotesi di uscita dall'Unione Europea. Amici inglesi, restate in Europa. Il presidente americano Obama arriva a Londra per la festa dei 90 anni della regina Elisabetta e fa capire subito, senza giri di parole, il suo pensiero sulla permanenza o meno del Regno Unito nell'Unione Europea, tema che sarà oggetto di referendum il prossimo 23 giugno. Messaggio nettissimo in cui Obama cita anche i vantaggi economici del legame di Londra con Bruxelles e anche quelli di una più efficace lotta al terrorismo. Having the United Kingdom in the European Union gives us much greater confidence about the strength of the transatlantic union. Che il Regno Unito sia all'interno dell'Europa ci dà maggior fiducia nella solidità dell'Unione transatlantica, dice ancora Obama. Insomma, questo per i nostri amici ed alleati europei è il tempo di restare uniti. Obama è arrivato ieri sera a Londra da Riyadh, sarà a colazione con la regina e poi l'incontro con il premier Cameron, impegnato nella battaglia referendaria in favore dell'Unione Europea contro una parte del suo stesso governo. Stasera, sempre con Michelle, cenerà con il principe William e la moglie Kate. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. L'economia, ci sono le dichiarazioni di questa mattina di Francesco Iorio, amministratore delegato della Banca Popolare di Vicenza, che racconta che da inizio anno il calo della raccolta della Banca Popolare è stato intorno ai 700-800 milioni, pari a circa il 6% da fine 2015, un calo che poi si è fermato a marzo. Della Popolare di Vicenza e soprattutto degli effetti di questa forte riduzione del prezzo delle azioni, torneremo a parlare più avanti, lo faremo col sindaco di Vicenza, Achille Variati, che anche di questo, proprio perché la Popolare collocata là, si sta occupando. Intanto continuiamo a parlare di risparmio per l'accordo finale per il rimborso dei bond argentini. Dopo 15 anni d'attesa è arrivato il giorno dell'accordo. I 50.000 risparmiatori italiani in possesso di Tango Bond argentini oggi possono esultare. In giugno riavranno i loro soldi. Il pagamento avverrà in contanti. Il rimborso sarà del 150% dell'importo nominale originario delle obbligazioni. L'intesa, definita e firmata in queste ore a New York, ha suscitato grande conforto. Il denaro destinato a questo rimborso sarà depositato su un conto bloccato presso un'importante istituzione finanziaria internazionale, in attesa del completamento di tutte le formalità con i singoli obbligazionisti, per poter ricevere il rimborso presso le loro banche di riferimento. Una vittoria importante per il presidente della Task Force Argentina, Nicola Stock, che ha creduto nel ricorso e ha tallonato i governi argentini dal giorno del default nel lontano 2001. Roberto Darin, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di televisione adesso e parliamo del Rischia Tutto. In realtà Rischia Tutto, noi lo vedevamo in bianco e nero, ma era a colori, e da questo istante naturalmente vi faccio vedere quali erano i colori autentici di Rischia Tutto, e da questo istante Rischia Tutto è a colori. I colori erano questi. Questo era lo studio di Rischia Tutto. Fabio Fazio ci ha beccato un'altra volta, Marta, a quanto pare, a vedere gli ascolti. Eh ci ha beccato alla grande, perché 7.537.000 spettatori, pari al 30,79% di share, tantissimo, come dire una puntata di Montalbano, quindi grandi record. Tenete presente che su Canale 5 Il Segreto ha sfiorato il 16%, ma soprattutto il Rischiatutto ha ammazzato Rai 2, Rai 3, Rai 2 Virus 2,97%, invece la povera erba dei vicini di Rai 3 1,86%. In realtà la puntata di ieri del Rischiatutto era molto particolare, perché sì, c'era un po' di nostalgia, ma c'erano anche i VIP dello spettacolo e le spiegazioni del meccanismo, quindi da una parte molto show, dall'altra un po' di lentezza nel meccanismo. Questa sera c'è la prima puntata con i concorrenti nuovi, ma soprattutto un grandissimo ospite che torna in prima serata, che è Fiorello. Sarà divertente vedere la sfida con la corazzata invece di Canale 5, che è Ciao Darwin, difficilissimo da pronunciare, per capire insomma come andrà la sfida. Ciao Darwin, che negli scorsi venerdì aveva asfaltato Rai 1 con Laura e Paola. Vedremo dunque cosa succederà dal punto di vista degli ascolti questa sera. Intanto grazie alla nostra Marta Cagnola. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade in questo momento, che cosa succederà nel fine settimana, l'abbiamo sentito pochi istanti fa, e poi nella seconda parte della trasmissione, come vi dicevo, sentiremo il sindaco di Vicenza. Torneremo ad occuparci di questo problema di inquinamento ambientale che riguarda le acque tra le province di Verona, Vicenza e Padova, e lo faremo col direttore del Dipartimento Ambiente dell'Istituto Superiore di Sanità. E poi dobbiamo tornare a parlare della morte di Prince, a tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato delle sostanze inquinanti nelle falde e nei pozzi a cavallo tra le province di Verona, Vicenza e Padova, con 250.000 veneti che dovranno essere sottoposti ad analisi del sangue, del petrolio finito nel Polcevera a Genova che tocca il mare, inizia tra l'altro a piovere a Genova. Abbiamo parlato delle partenze per il 25 aprile, 7 milioni e mezzo di italiani in viaggio, dovrebbe arrivare il brutto tempo. Adesso torniamo ad occuparci della Banca Popolare di Vicenza, ma non dal punto di vista strettamente finanziario. Achille Variati, il sindaco di Vicenza. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno. Allora, due fronti vorremmo affrontare con lei. Il primo è un fronte più puramente sociale. Io ho visto che inizia ad esserci qualche preoccupazione, e anche giustamente se vogliamo, tra i sindaci della zona, non solamente della provincia di Vicenza, della quale lei è anche presidente in forza, come dire, della nuova disciplina, sì. Perché insomma c'erano 120.000 azionisti. Alcuni di questi, circa la metà, si sono trovati con una riduzione del loro patrimonio, rischiano di ritrovarsi con una riduzione del loro patrimonio a causa del nuovo aumento di capitale, da 63 euro per azione a 0,1 euro per azione, una riduzione di circa il 98%. State già pensando a come si possa affrontare la cosa? Perché immagino che qualche problema si genererà. Ma vede, il problema che si sta ponendo è anche un problema sociale e di fiducia tradita, perché lei ha giustamente detto 119.000 soci, pensi solo per la provincia di Vicenza, un 30-35% di quei 119.000 soci sono abitanti della provincia di Vicenza. Vuol dire che una famiglia ogni 5, una famiglia ogni 6 aveva le azioni della Banca Popolare. E se lei avesse chiesto, ma lei, signor Rossi, ha azioni? Quel signor Rossi avrebbe risposto, no, non ho azioni. Ma come? A quelle della Banca Popolare. Ma la Banca Popolare è una specie di cassaforte. Era intesa come qualcosa, un risparmio sicuro. Come è stato e come è per molte province italiane a tutti gli effetti. Insomma. Esattamente. Quindi fiducia tradita e risparmio praticamente azzerato. Perché la stragrande maggioranza di quei 120.000 soci sono piccoli azionisti che avevano messo lì il loro TFR, i loro risparmi in attesa. Insomma, ora si trovano azzerati. Quindi alcune di queste famiglie, per l'azzeramento dei loro risparmi, non riescono più ad affrontare la vita normale di quella famiglia e cominciano iniziano a venire presso gli sportelli, ad esempio del mio comune, per chiedere aiuto, per chiedere sostegno al reddito. Avete cioè, registrato quindi, sindaco, avete registrato quindi un afflusso maggiore? Sì, cominciamo, purtroppo temo che sia solo l'inizio di un processo, di un impoverimento di un territorio, ed è ovviamente una cosa molto preoccupante. Vi state attrezzando in qualche modo un rafforzamento degli uffici o cose di questo genere? Perché ho visto che qualche problema inizia a verificarsi, soprattutto nei piccoli comuni, come è normale che sia. Magari a Vicenza siete un po' più strutturati da questo punto di vista. Siamo più strutturati come comune più grosso, ma soprattutto, e questo è un merito di quella riforma delle province, adesso si chiamano aree vaste in mano ai sindaci, finalmente noi sindaci cominciamo a collaborare e quando c'è un bisogno, quando c'è un'emergenza, ci diamo la mano. E penso che così succederà anche per questo fenomeno sociale grave che stiamo vivendo dopo l'azzeramento del valore del vecchio azionariato in Banca Popolare di Vicenza. Senta, soci e clienti, sono dati di ieri, hanno finora presentato 4.700 reclami per una richiesta complessiva di oltre 1 miliardo di euro. Lei ha scritto al ministro Orlando dicendogli: ministro, qua ci vuole un rafforzamento della procura perché non reggono, se no. Ma perché veda, quando succedono queste cose, e cioè l'azzeramento di un risparmio, è evidente che il cittadino chiede giustizia, chiede di capire se vi siano state ai vari livelli delle responsabilità e chiede che vengano anche punite queste eventuali responsabilità penali. Allora, guai se al tra virgolette tradimento dell'istituzione finanziaria ci fosse anche il tradimento della giustizia, nel senso che tutto si impantana per mancanza di giudici, per mancanza di cancellieri e così via. E quindi facevo notare al ministro Orlando l'opportunità che da queste parti si rinforzi la Procura della Repubblica per consentire ai giudici e all'apparato giudiziario di fare la loro parte, e sarà una parte importante, sa, nella ricucitura di una fiducia tradita. Le chiedo di aiutarmi a introdurre il prossimo tema, perché è un tema che riguarda anche il Veneto, e abbiamo tra l'altro già in linea Loredana Musumeci, che è direttore del Dipartimento Ambiente dell'Istituto Superiore di Sanità, e ci riferiamo alla vicenda delle sostanze inquinanti che sono state trovate nelle falde e nei pozzi e sono state anche riscontrate in prelievi a campione su 500 persone. La metà di queste circa, a cavallo tra le province di Verona, Vicenza e Padova, appunto aveva questi materiali nel sangue. Sono i PFAS, sono di fatto, possiamo definirli molto semplicemente, poi ce lo faremo chiarire meglio, dei residui plastici. Da quel punto di vista, come state intervenendo? Beh, innanzitutto adesso c'è bisogno di portare informazione giusta, perché si è passati dalla disinformazione, dal silenzio, si vedrà quanto colpevole, per anni, adesso a un vociare a tratti confuso, per cui le persone cominciano ad avere paura per la propria salute, e poi c'è ad esempio un'economia che è l'economia agricola, oltre che quella zootecnica, che a cui bisogna dare presto la risposta. Ma quell'acqua può essere utilizzata per annaffiare, per dare acqua alle culture? O stiamo facendo, o stiamo aggravando un problema grave ancora di più? Quindi adesso c'è bisogno di buona informazione. Allora, facciamo così, sindaco, io so che appunto lei ha fatto chiudere i pozzi con un'ordinanza la settimana scorsa, noi proviamo a fare buona informazione su questo, sappiamo che abbiamo anche tanti ascoltatori che ci ascoltano dal Veneto, proviamo a farlo intanto ringraziando il sindaco di Vicenza, Achille Variati, appunto con Loredana Musumeci, direttore del Dipartimento Ambiente dell'Istituto Superiore di Sanità. Benvenuta dunque. Grazie, buongiorno a tutti. Ci dice innanzitutto che rischi ci sono? I rischi correlati alla presenza di queste sostanze nell'ambiente e conseguentemente, stante l'esposizione pregressa attraverso l'utilizzo delle acque potabili, acque di pozzo, e quindi la presenza all'interno dell'organismo umano nel sangue fondamentalmente di alcuni gruppi di popolazione maggiormente esposti, è un rischio potenzialmente connesso a patologie correlabili con le patologie cosiddette dismetaboliche, cioè quali ad esempio alterazione dei valori di colesterolo, alterazione della funzionalità tiroidea. Queste non abbiamo ad oggi evidenze scientifiche anche da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che queste sostanze possano essere una concausa di sviluppo di tumori. Ok, quindi non ci sono evidenze da questo punto di vista. E ad oggi in letteratura, se mi consente un ultimo chiarimento, non c'è alcuna evidenza scientifica che comunque anche rispetto alla tossicità, quindi tossicità non cancerogena, ma come dicevo prima alterazioni dismetaboliche, vi sia un rapporto di causa-effetto. Ok, perfetto. Quindi non c'è un nesso di causalità accertato da questo punto di vista. Ci dice che cosa avete riscontrato, perché vi siete occupati voi delle analisi, nelle acque di falda e dei pozzi di quest'area del Veneto? Noi abbiamo non siamo occupati delle analisi delle acque di pozzi e delle acque di falda, bensì soltanto della parte del biomonitoraggio umano, cioè delle analisi della presenza dei FAS nel sangue, nel siero del sangue dei soggetti arruolati. E che presenza avete riscontrato? Abbiamo riscontrato una presenza che mediamente possiamo dire per le sostanze che sono quelle sulle quali maggiormente si concentra l'attenzione anche del mondo scientifico, perché sono quelle più persistenti nell'ambiente e che esibiscono una maggiore tossicità, e che sono il perfluoro, quindi nell'ambito delle famiglie dei perfluoro alchili, il FOA e il FOS. Abbiamo riscontrato comunque rispetto a queste sostanze mediamente un valore circa 10 volte maggiore rispetto a quello che oggi è un fondo della popolazione italiana, perché presso l'istituto nel 2011 avevamo già fatto uno studio generale sulla popolazione italiana, perché sono ubiquitarie e quindi un'ultima domanda, vi occuperete anche voi ovviamente dello studio, non sarete voi a fare i prelievi dello studio sui 250.000 campioni che dovranno essere prelevati? 150.000 campioni, cosa? Di sangue. Ma non dovranno essere prelevati, nessuno ha detto che dovranno essere prelevati 250.000 campioni di sangue. Questa è una mala informazione che mi dispiace che stia circolando, perché noi nel corso della conferenza stampa abbiamo chiaramente detto, e anche nei comunicati stampa, eccetera, che i 500 campioni prescelti per la popolazione generale sono rappresentativi dell'intera popolazione e quindi la regione correttamente, conseguentemente a quanto affermato dall'istituto, ha detto chiaramente anche questo in conferenza stampa che prenderà in carico dal punto di vista sanitario l'intera popolazione e che poi diciamo distinguiamo la popolazione maggiormente esposta. Sono circa 60.000, sono i 7 comuni, però in via cautelativa, anche temperando al principio appunto di cautela che l'OMS ha voluto sottolineare, la regione ha detto che prenderà in carico, e poi vedremo le modalità operative, tutti i 250.000 gli abitanti di tutte, quindi anche dei comuni non esposti, ma non c'è assolutamente bisogno, sto cercando di tranquillizzare anche le persone che mi stanno chiamando, di fare le analisi. Per vedere quanto FOS hanno nel sangue, perché non, dal punto di vista sanitario non ha alcun significato. Noi abbiamo, questo studio ha definitivamente accertato che c'è stata un'esposizione, e quindi bisogna intervenire sull'ambiente per azzerare questa esposizione a breve, ma già sulle acque potabili questo è successo, e nel frattempo prendere in via cautelativa misure di prevenzione primaria, secondaria, sanitaria. La ringrazio. Grazie a Loredana Musumeci, direttore del Dipartimento Ambiente dell'Istituto Superiore di Sanità. Adesso ci fermiamo, ci ritroviamo come sempre con la borsa. Siamo stati a lungo in Veneto, ci sposteremo in Sicilia nella seconda parte della trasmissione con una piccola vicenda, però non male, che arriva da Bagheria e che riguarda un gruppo di bambini. E gli hanno chiuso la scuola, devono andare tutti i giorni da una frazione a Bagheria e si devono fare tutti i giorni 4 km a piedi perché Bagheria non ha i quattrini per pagare il trasporto pubblico. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: siamo stufi delle beghe politiche che circonda Berlusconi, pensa solo alle poltrone, così Salvini sulle candidature a Roma. A Genova il petrolio è finito nel Polcevera, tocca il mare, chiazza avvistata a Pegli, si lavora per non chiudere le spiagge. Nelle falde e nei pozzi sostanze inquinanti tra le province di Verona, Vicenza e Padova, riscontrate anche in prelievi a Campione su 500 persone, come avete sentito l'Istituto Superiore di Sanità tranquillizza. Un camion investe gli operai al lavoro su una statale del Nolano, due di loro sono morti, altri tre sono rimasti feriti. Ottimi ascolti per il Rischiatutto di Fazio, 7 milioni e mezzo di persone davanti allo schermo per la prima puntata. Alla borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo per una storia che arriva dalla Sicilia, una piccola storia che riguarda degli alunni che tutti i giorni sono costretti a farsi 4 km a piedi per arrivare a scuola. Sembra di essere tornati indietro di 50-60 anni. Succede a Bagheria, abbiamo in linea il sindaco Patrizio Cinque. Sindaco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, da quel che abbiamo capito è successo questo: la scuola dell'area dove si trovano, Aspra, che è un posto dove vivono, un borgo marinaro, è chiusa al momento perché è inagibile, quindi devono venire a scuola a Bagheria, voi non avete i soldi per il trasporto pubblico, in sostanza. Sì, il comune di Bagheria è un ente in dissesto. Intanto la responsabilità del sindaco è quella di mettere in sicurezza i bambini, quindi preferisco mettere in sicurezza i bambini piuttosto che rischiare eventi irreparabili. Per risolvere il problema, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso in affitto due immobili, nonostante il dissesto, e uno di questi si trova a Bagheria. Sì. Alcuni bambini ovviamente hanno bisogno del trasporto, quindi da Aspra verso Bagheria, e questo trasporto è stato garantito grazie alla cittadinanza attiva di alcuni, quindi a questo esempio che dobbiamo registrare importante, di alcuni cittadini che si sono messi a disposizione e hanno utilizzato i mezzi del comune per garantire questo servizio. Sì. Il servizio è fermo da soli 15 giorni, non dall'inizio dell'anno, come dice un'altra testata. Sì. La storia l'abbiamo pescata su Repubblica. Pubblicamente, perché in realtà il servizio è fermo da soli 15 giorni, tra l'altro ieri la giornalista, e ve lo devo pure dire perché quella non è cronaca, c'era un genitore che può testimoniarlo, che voleva dare il passaggio a un bambino che stava andando verso Bagheria, e la giornalista gli ha detto no, lo devi fare a piedi perché devo fare il servizio. Questo è vergognoso. Però dico, a prescindere dalla poca professionalità della giornalista, io vi devo dire che il servizio è fermo da 15 giorni, da martedì, quindi dopo il 25 chiaramente il servizio di trasporto verrà garantito con il noleggio di mezzi privati. Okay. Anche questo nonostante il dissesto, quindi ci faremo carico anche di questo. Sul fronte dell'edilizia scolastica ti devo dire che noi ci troviamo in un comune in dissesto con anni di immobilismo delle passate amministrazioni rispetto agli stanziamenti sull'edilizia scolastica, cioè hanno speso zero. Mentre noi l'anno scorso abbiamo Quando la ripristinerete questa scuola? Allora, per questa scuola abbiamo presentato un progetto nel piano triennale dell'edilizia scolastica regionale. Il progetto si è posizionato bene, quindi aspettiamo il decreto di finanziamento da parte della regione e poi partiremo con i lavori. Nel frattempo abbiamo preso in affitto queste strutture e per evitare il disagio dei doppi turni abbiamo garantito appunto il trasporto fino a 15 giorni fa. Quindi mi sembra che la cosa sia destinata ad avere un lieto fine, lo auspichiamo e insomma se ci fossero problemi la richiameremo. Grazie sindaco Patrizio Cinque, buona giornata e buon pranzo. Sindaco di Bagheria, buona giornata anche a lei. Sì, probabilmente qualcuno andrà portato dalle auto dei genitori, come ci scrive qualche ascoltatore. La morte di Prince, gli aggiornamenti sull'indagine. È ancora avvolta dal mistero la morte di Prince, compositore, cantante, polistrumentista, leggenda della musica mondiale, trovato morto ieri a 57 anni nell'ascensore della sua residenza alla periferia di Minneapolis, in Minnesota. Il sito di TMZ, il primo a dare la notizia della sua scomparsa, rivela che non sarebbe stata l'influenza a costringere Prince ad un ricovero d'emergenza il 15 aprile scorso in Illinois, di ritorno da un concerto ad Atlanta, bensì un'overdose da oppiacei. In quell'occasione Prince venne sottoposto ad un trattamento chiamato Safe Shot, previsto proprio in caso di overdose. I medici avrebbero voluto trattenerlo in ospedale, ma non essendo disponibile una stanza privata, il musicista avrebbe chiesto di essere dimesso e di poter tornare a casa. Ora sarà l'autopsia, si spera, a fare chiarezza sulle cause della sua morte, ma in attesa che siano completati gli esami tossicologici, che richiederanno alcune settimane, per il vice sceriffo della contea di Carver, dove si trova la residenza di Prince, è ancora troppo presto per ipotizzare alcun reato. Intanto, per tutta la notte, il tributo dei fans al First Avenue, il club di Minneapolis dove fu girato gran parte del film Purple Rain, per il quale Prince vinse un Oscar nel 1985. Adriana Fracchi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico, Mario Platero con America 24 e poi ci ritroviamo alla fine per i saluti.